Sta maschera nera da silhouette. Quanta dolore, quanta sonnera ira, c'è sta criscia che non viene più. Ma non è vero che io soffro e lucava tanto l'ora, ma tanto l'ora. Coppe in mano re signore sta città, perché sta miseria che c'è stanzine di interrecchio e non ce l'ha se manco di invece guardare. Ma chi sta mai aspettando per stennare